vediamo se ha cambiato qualcosa, guarda. Ok, ok, questo sembra perfetto. Però aspetta un attimino, eh. Allora, questo invece è in out, quello che usavo prima, quello che usavo prima, in out. Mentre invece questo è in in. Aspetta, no, sto sbagliando io. Oh, oh, oh, sì. Allora, questo qua è... Ma cazzo è? Se non ricordo se era 550. Quanto sono cieco? Allora... allora, questo che sto utilizzando io ora è in in, sotto la fasetta. L'altro invece è in out. Come mai? Cosa si spiega? Come si spiega? Allora, mettilo in in anche l'altro. Devi metterlo in in anche l'altro. Ed è sì, un bel amplificato. Aspetta, con questo? Sì, un bel amplificato. Sì, un bel amplificato. Mettilo, metti anche l'altro in in e metti il gelato a 50. Ma allora dovrei cambiare ciò quanto? Perché se sei in auto non va bene, devi metterlo in in. Guarda che una prova l'avevamo già fatto e mi si era bruciata una resistenza dentro, infatti Andrea mi ha detto guarda mettilo, lascialo così perché sennò ti si brucia di nuovo, e tre volte mi ha bruciato la resistenza. Ok, togli il processore d'acqua. Ok, forse qua era troppo alto questo microfono. Questo è il vecchio, proprio mio, del Kenwood con l'alberino. Quello là invece è senza alberino, è sempre Kenwood, però una seconda serie. Ok, ora quello io, la seconda serie, io non ne ho alberino, il quadrifoglio, dai, il trifoglio cos'è? Esatto. E guarda quello che ho io. Oh, però, ti brucia la resistenza. Quello vuole messo sotto lente, guardato, perché brucia questa roba qua. Chi te l'aveva controllato quel microfono? No, è venuto Andrea, però per un paio di volte mi ha fatto questo difetto qua. Questo qua alla radio è quasi incomprensibile. Quasi incomprensibile? Perché è troppo amplificato? Sì, è quasi incomprensibile. L'altro in... prova a metterlo in auto, questo. Basso. Mentre invece così è suo. Sì. Boh, c'è... Allora, quel 60 là non va bene, quel 60, se questo qua è l'originale, dai, se questo è quello che usi con il 450, devi abbassare, devi togliere anche l'equalizzatore da qua. Allora questo ha anche 50 anziché 500, adesso provo l'altro con 50, ok? No, prova questo qua a 500. Così è a 500, guarda un po', ha cambiato. E ha voglia. A voglia, ha cambiato tutta un'altra cosa. È meno forte? No, è comprensibile che è diverso. Ho capito, però io col 450 lo stavo usando a 50. Ok, l'altro però ce l'ha a 500. L'altro è... l'ho messo a 50, non so, mi ricordo, se l'ho toccato mille volte. Ma stai schiacciando tu la portante in 446? No. E allora ho pizzicato qualcuno che sta schiacciando la portante e ci sta ascoltando. Sì, lo so, vedo poco fa. Sarà Cristian, aspetta. No, vabbè. Aspetta che provo a rimettere l'altro. Mi lo vedi? Prova a metterlo a 50. Prova a metterlo a 50. Guarda un po', così è a 50. Quello che ti ha dato il... quello che ti stava dando il problema, giusto? Sì. Ok, usa questo qua, usalo così e vediamo un pochino cosa succede. Vediamo, perché poco fa, vabbè, non mi ricordo se era 500 o 50, però sono senza processore. Ed è forte come diciamo, come timbrica, forte come l'altro, è forte come l'altro. Però non ti sta facendo problema adesso, lo sai? Boh, aspetta un attimino, però. Non so, Gabi, proviamo a lasciarlo così, vediamo un pochino. Sì, prova, gioca un pochino, non in trasmissione, fai sali scendi da 50 a 500. Non vorrei che sia ossidato quel contattino. Ah, già può essere. Adesso lo provo. Sì, abbiamo anche gli spioni. vabbè, guarda un po'. Ok, adesso sei a 50, giusto? Sì. Ok, perfetto, mettilo a 500 e parla a 500. 500 è proprio chiara e bella. Eccolo qua, lì a 500, guarda. Dai, che è quell'interruttorino del gelato, dai. È quell'interruttore. Adesso sei di nuovo basso. E quindi? Un po' di prodotto. Ah, già ce l'ho, aspetta che te lo metto. Non un secchiello, appena. Che tu sei quell'esagerato che ti fai prendere dalla porra. Sarebbe da smontarla, aspetta. Va bene, così guarda un po', 1, 2, 3. Ok, perfetto, vai. Così è 50, No, allora non visemo. Guarda un po', così è 500. Basso. Io sto lasciando sempre il volume a mezzogiorno, è sempre il solito ascolto, non sto adesso levando né abbassando, quindi movimenta quella roba, è il gelato. Guarda adesso. 500, sì. No, adesso è 500, guarda adesso. Adesso era bassissimo. Ti sta invertendo da 50 a 500, cioè se tu lo metti a 50 è come che sta andando a 500. Se tu lo metti a 500 è ancora più basso. E adesso invece? Adesso è buona. Allora lasciamola così, non me la fotti 550, già l'importante è che funziona. Ma è bassa, non è come l'altro a 500, capito? Cioè hai una radio bassa. Ho una radio bassa. Ma chi? Io? Lo so che questa cosa non può essere gradita da parte tua, però io ti dico la verità. Ma anche adesso la radio bassa. Parla. Parlo, sto parlando da poco fa, anche adesso la radio bassa. Guarda un po'. Hai adesso dato un colpo, detto adesso la radio bassa e ribasso, poi ho detto guarda un po', ti sei sollevato. Ma non è che il PTT invece che sta facendo poca... Adesso sto mettendo un look, così almeno rimane fisso. No, ma è uguale, con lui, con il PTT è uguale. Cioè il segnale c'è tutto, però è proprio è il gelato che ha problemi. È il gelato. Capito? Quindi magari cambia solo il gelato dall'altro microfono a questo e vediamo un pochino se è il gelato. Sì, adesso cambia il gelato, aspetta. Ok, guarda, ho cambiato il gelato. È il gelato, dai. È il gelato. Mettilo a 500 a vedere. Eccolo qua, così è 500. Sì, perfetto. Questo però più duro, mi ha fatto dalla terra. Una mazza, anche 3 kg basta. No, perché mi si rompono, è bello questo qua, mi piace, mi è sempre piaciuto. Però bisogna smontarlo. Io l'MC60 non so proprio come aprirlo, lo sai? Il gelato, se no l'avrei fatto già nel mio. Allora, io sì, si svita questa ghiera qua che c'è da una, però mi sembra che sia incollata, lo sai? Perché la mia non molla, la mia non molla assolutamente, quindi lo sai chi lo sa, Claudio ti può dire, te lo può dire come mollare il 60. Però io non lo... Io ho provato, ho fatto anche un pochino di forza, ma ho detto no prima che lo spezzo, quindi non l'ho toccato. Tu dici che lui lo sa, non so, lui l'ha fatto? Sei sicuro che lui l'ha fatto? E lui mi ha detto che l'ha smontato, l'ha rimesso a posto uno, quindi lo sa. Claudio già lo sa come mollare il 60. Almeno lui mi ha detto che l'ha fatto, poi non so cosa intendinare. Vediamo un attimino se lo sa, dai. Aspetta un attimino che... vediamo un po' se... se ci toglie la, il dubbio. Vediamo un attimo, non so se mi risponde. Adesso sto mangiando. Che adesso? No, sono un altro cattero. Perché? Cosa c'ha? Perché lo voglio smontare. È duro, Eti. Io... Prova, 1, 2, 3, prova. Qua a San Pi, dal Golfo dell'Asinara. Cambio, c'è nessuno in ascolto, sul 12, in FM. Prova, 1, 2, 3, prova. Franco, Franco, ci sei, Franco. Breco, Breco, qua Sierra Alfa Mike, Papa e Cogianni, dal Golfo dell'Asinara, ora, ora, c'è nessuno. Comunque, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio! Eh beh già! Ciao Davi! Me! Mangiando martedì di che cosa! Ero addormentato, mi sono svegliato tardi stasera, risette a che cosa! 7 mesi forse! Grazie, mi sono svegliato uno freddo, ma ti vira freddo! Oh già, ma qualche coperta di quelle coperte elettriche riscaldanti, non te la puoi prendere? Ce l'ho, però il problema è che ho quel piede ferito e quindi è un casino questa. Perché se no già a dormire già dormo, però chi mi si fredda nei libidi è un casino, chi mi contrae lo stomaco quando mi si freddano le gambe. Ho capito. È perché con la coperta termica riesci a riposare. Il piede gli metti una sorta di lenzuolo sotto i drommi. E infatti ho fatto così ieri notte, però cioè, il problema è che quando mi mettevo la coperta termica la mettevo a uno o a due prima di addormentarmi. E poi quando mi coricavo la spegnevo, capito? Se da buio mi entrava freddo la mettevo a uno poi la notte. Tanto c'ha il timer da mezz'ora, un'ora e via dicendo. Me l'avevo presa da tipo una piazza e mezzo perché io ci ho letto un po' più grande del lettino, capito? E per dormire meglio perché mi metto il cuscino in mezzo alle gambe un bel volte per tenere la diagonale della schiena. È un casino, quindi. Quelle coperte sono belle lì, una bella coperta termica e caspita, o se no già, ti vuoi pure una pompa di calore in camera e te la tieni accesa al minimo. Non me l'avevo messo il condizionatore in estate, la notte l'ho messo a 26, a sole, con il sole, però ma laggiù ti si fa l'aria fredda bassa. Tipo a livello di piedi gira l'aria fredda in terra, capito? Mentre se sollevo la mano si sta bene perché la temperatura è calibrata, quindi si stacca, si riattacca, però molte volte quando va freddo ma la sottica sempre a me, non lo so, ci deve essere qualche spiffero in gatto e lupo. Mentre la coperta termica, non la coperta, è una specie di, non è coperta, è un lenzuolo, non è un lenzuolo neanche, è un, comunque era della Imetec con il telecomando, grazie a che 120 o 130 euro mi era il bagaglio l'anno scorso. E quella d'inverno non ti scalda? Eia che mi scalda, però ti ripeto, poi quando un po' di volte cazzo di vado a stare evaporatemi, perché a livello di busto sto bene, a livello dal bacino diciamo, dalle ginocchia in giù, come ci sono i nervi che deve essere gli hanno rotti, non ne so cosa ne fa, funzionano i mali, anche non funzionano, cioè non è che funzionano i lanci, sono i piedi che non funzionano, le gambe già se ne muovo, già cammino, però posso fare 3-4 bassi e da poi mi devo buttare a far forza qui. La carica muscolare, la carica ossea sul bacino è troppo, perché consumo più di quello che che nutro, capito? Sì, ho capito, io già non lo so, una soluzione si deve trovare, una soluzione deve trovarla, cioè a chi uno non può, si deve uscire da morendo di freddo la notte, a che cosa, dai di organizzare, a che cosa, brusi vai gaglio, però, meglio lo gaglio che lo freddo, Sì, quello sì, il problema però non è sempre, il problema è sempre che sono i piedi, capito? Se ti si freddano i ribidi è un casino, perché quello là è ferito e magari tanto quanto, ma l'altro mi fa molte volte più male di quello che è ferito, perché come si contraggono tipo i nervi sciatici è una cosa tremenda. E tanto tocca bisammini, secondo Torrettono, che in cameretta c'ho la macchinetta, quella giù lì della lavazza, e mi faccio tipo un mini cappuccino, e da poi toccavamo un fumogeno di DHC, 2-3 tiri, come ti mi si pare che mi si sia dormendo la mente, mi si goffo e dormo di nuovo. Però tipo dopo 3 ore, 3 ore e mezzo ne sono in terra dopo. Io già stamani erano i 3:30 quando mi sono uscitato, i 3:30, neanche dopo pranzo ho riposato, però stamattina alle 3:30 avevo luci i due vari, infatti sono uscito in cucina, mi ho acceso le radio, sono uscito in cucina, ho mangiato un caffè, sono entrato nella stanza dove avevo le radio, ho acceso le radio, ero loghi, vigiorendi, vendi e niente, ma ci ho dato un poco di tablet, un poco di cose e poi dai, niente, però nel letto, perché se rimango a letto a riposare, inizio a stare a girare, a fare, e mi sveglio anche a loro, quindi no, mi sono uscito in cucina. Vai Tino, buonasera. Ma io che vuoi dire, ho detto qualcuno, guarda com'è questo microfono là. È troppo amplificato, senti. Non ho toccato niente, questo è il vecchio, cioè il vecchio, come si dice, quello che c'ha sempre. Aspetta, ammazzo, metto a 500. Così è 500, guarda un po' se ha fatto effetto il pulitore. Ora ha fatto un ottimo effetto, ottima l'emissione. Lo lascio a 500? Sì, lo lascio a 500 ed è ottimo. Hai lubrificato? Scusa già, ti faccio riprendere subito. Hai lubrificato, Oti? Da parte esterna, però volevo aprirla, infatti te l'ho chiesto per quello. Se va bene non lo apro, se no lo lascio così. Ciao Gianni. Va bene, dai, riprendete, già sono qua. Buon pomeriggio Tino, buon pomeriggio. Ciao Gianni, ciao. Stavo provando il microfono che stava facendo dei problemi. Sono Gavi, lo apro. Allora, praticamente Claudio mi ha detto che non ha mai aperto gelato, ha sempre fatto il tutto dalla basetta, quindi apriva le 4V, ti metteva un po' di CRC, quello per i contatti, nel tastino out-in, lo muoveva spesso, e praticamente l'unico difetto che ha questa basetta qua è questa. Infatti adesso se non ha fatto niente esternamente, mettendolo esternamente, lo apro e lo lubrifico dall'interno. No, va bene. Va bene alla grande. Sì, sta andando bene adesso, voleva un po' lubrificato, però è alla grande. Allora già, vai avanti e vediamo un pochino, vai. Per te. e ti stavo dicendo, pure io mi sveglio la notte, tipo come sei tu alle 3, alle 3:20, poi a volte dipende, molte volte sono le 2:30, però non lo so, vorrei che cosa, perché sono tipo addormentato tranquillo, mi sveglio e come dici tu, come è un po' gaddetto. E un po' gassinizia, lo fai lui, tre buchi, alla fine delle bisane, chi se non io come castellerane mi bonga a bolli, come sta sta, brutto dottore, vassaggio, ma vedi arruinato in bada, perché è una cosa che non sopporto, capito? Nel senso che non mi do gubbaggia chi, non lo so io, bagamustivo, chi alla fine ed io non funziono come si devo funzionare e mi vado a avvelenare. Abituato al mio stile che avevo di andare, tornare, essere indipendente e magari fare qualche aiuto in famiglia, nel senso che quando uscivo dicevo ma cosa ti serve l'acqua, urbana, lì, sudati, capito? E invece adesso sono tipo, sono sempre appreciato, nel senso che sono sempre in cameretta, nel salone, sono tutta durori. Mi accendo le radio come hai detto tu, ogni tanto faccio zapping con il telefonino, mi accendo la televisione, guardo qualche pezzo di telegiornale con il meteo e da buon inizio di giugno. E provo di nuovo a riaddormentare. Se no, non lo so, è un casino, soprattutto in inverno, io in inverno sono un bel strano, sto. D'estate magari tanto quanto riesci, perché se c'è caldo sei più tranquillo, compreso, ma d'inverno è un casino è. Radio ditta riduttori, ma tu lì, la tua, tu sei trasferito anche. Ha detto non c'entra niente, mi ha detto, non c'entra niente perché a livello di cose non ha già crudo. Ma vedi qua che buono di vita mettini, no? Di che sono bubuccini a che la patologia mia, non entra nulla, vista, non entra nulla. Hanno loro fatto un errore grave e se ne hanno lavato le mani, mi stanno tutto in un angolo. Come ti lo dico, che ma tu caldo non mi vuoi vedere nessuno. A chi lo sa che esiste da un delinquente, ed è delinquente. E ti dico Bulgari, lui, a Carlo lui, al dottore, l'ortopedico, che mi sembra che lui il direttore generale della U oppure della cosa universitario di Sassi. Capito? È pure un massone, so che a chi è un amico mio, una cosa di. Mi ha detto che è delinquente, è un delinquente vasto di. Intanto caputteggia in macchina veramente chi su prima o poi. E a caputteggia le burette in macchina vita di si va di mari. E intanto più di così non lo puoi curare sa niente, tanto morire devi morire. Però di maro devi augurarli di. O tu voce che piglia nella macchina, devi ricaputtare, devi ricambare la macchina era lì, quindi niente. Quindi queste cose vanno, beh, se ti fanno una cosa del genere devono soffrirle. Maradetti, e poi vanno sempre ragionieri, vanno rubicando il coltello dalla parte del manico e non i gavi bidi, non i bidi compresi, non i bidi. Però tu una cosa la puoi fare sempre, ogni volta che vai valle a pezzi, devi valle a pezzi, devi brutti a botte, devi dei maledetti, devi giacimarli mari, devi giacimare mari, sai niente, chi sa niente andare giacimata, capito? Almeno io la penso così, una volta che ti vedi che tu gli assimeggi sempre e ti pigliano qualche cosa, io non so poi se tu sei andato per vie legali, se non sei andato, però l'avrebbero pagata, adesso a parte gli scherzi, a parte le cose, le stupidaggini, però già, metti i legali buoni, metti i legali come si deve e fatti pagare, perché la schiena non è un gioco, la schiena non è un gioco, a te sai niente ti ha arruinato. Hai capito te? Per un'operazione dal niente hanno arruinato le schiena ad una bassola. Vai te. Tu pensa che il luogo di mio padre è stato inquisito, non solo si pagava gli extra a casa sua, anche quelli dell'ospedale. È affadinà, ormai noi siamo delle persone che per loro siamo soldi, quindi più male siamo e meglio è per loro, come la farmacia, capito? Quindi io non so se voi state seguendo anche su TikTok, c'è su TikTok oppure su Facebook, questo tipo è praticamente un disegnato, un cartone animato, ed è il dottore più incazzato del mondo praticamente, non so se l'avete mai sentito, però ti dà dei consigli, no? Ti parla proprio male, se vuoi per dire che il tuo stomaco di merda reagisca in modo corretto devi mangiarti questo, questo e quest'altro, se vuoi che quei dottori del cazzo, proprio maleducato, però ti dice le cose essenziali, no? Tipo per dire, tu sai benissimo che il ginseng con il limone e l'aglio sono un ultimo purificatore, un ultimo antibiotico, queste cose qua, no? E lui dice come prepararlo tutto quanto. Io queste cose qua le sapevo da tempo e per dire la verità per un periodo ho sempre fatto, che ne so, un pezzo di zenzero con 2 litri di acqua, 2 limoni, la scorza di limone bollita per 15 minuti e poi il succo di limone alla fine. E ti dirò che mi sentivo meglio, lo sai, anche fisicamente, senza meno dolori, tutto quanto. Adesso sono un po' che non lo faccio, però ho intenzione nuovamente a rifarlo. Molte volte ci tralasciamo le cose semplici e ci affidiamo a loro come se noi siamo, però non è così, loro più male fai e meglio è. Tu pensa che c'è il padre di Walter che ha oltre forse 92-95 anni, adesso non mi ricordo, ogni mattina fa schifo dirlo perché voi conoscete bene gli effetti dell'aglio e non so se avete il coraggio di farlo, però lui ogni mattina si mangia uno spicchio d'aglio prima di fare colazione. Non mi chiedere come ha l'alito, però io vedo che lui, quando lo vedo, è brillante, è una persona che non sembra che ha lui, non sa, ma è da una vita così, vai a vivere. Sì, è quando, ascoltati, per esempio dicono di bere un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva la mattina, io sembra così, ma non tutti i giorni, però lo bevo spesso e volentieri, appena mi alzo, cucchiaio d'olio. Noti le differenze. Poi questa cosa, lo seguo quel medico. Vuoi domare quel cazzo del diabete? Devi seguire questo. Sì, già lo seguo. Una sorta di Einstein con i bei niti. Stanno rovinando. Non bisogna seguire i nutrizionisti, e quando ci danno le medicine per l'influenza bisogna prendere solo al bisogno. Io ero influenzato, io stavo male, ho preso una bugia, vuoi sapere, non ho preso niente. Ma veramente, non ho giubilato nulla, non me ne ha fottuta nulla, non ho preso né sciroppi né niente. Ho preso il caramelle di erbolisteria per la tosse. E grazie a te è andata via, mi ha fatto il suo corso, sono stato male, sono stato a crampi, a dolori, però è andata male. Ero stanco di prendere, sono stanco di prendere roba per il mal di schiena, e comunque, perché anch'io soffro di mal di schiena, e comunque a questa gente non bisogna dare in retta, perché più medicine vendono, più loro si fanno la villa grossa. Non che non siano medicinali salvavita, però se si può fare a meno di prenderle già, bisogna fare a meno a chi la medicina, tranne il mezzo, io dico salvavita, quella roba lì, però l'antidolorifico, l'antinfiammatorio, quello lì è solo un tampone, e basta, dopo che finisci, dopo che ti abitui, quella roba lì non fa più niente, vai di nuovo già. Sì, è vero, anche io lo seguo quel dottore che ha detto Tino. Il discorso mio è che io non ne faccio abuso di farmaci, a chi l'ha già provato tutti. E da chi non funziona né non ne funziona, né inutili che stabilia nei bacci gli abbiuti. Io quando sono proprio in estremis che soggo, allora mi sciolgo una di quelle tachipirine da effervescenti, le sciolgo in un mezzo bicchiere d'acqua, la faccio sciogliere bene, nel frattempo magari cosa ne so, se mi inibisco in dentro di notte chi sono Gadduroli e mi guardo un po' di televisione, sbizzo un po' il telefono, poi mi prendo la sacchifilina, mi porto 2 litri di fumogeno e mi si drive, perché se no è una battaglia bestia, perché nella storia degli istruttori avevo interpellato dei legali, ma dei legali forti davvero, come entrare in cubito che era Edu, ma ha detto no, perché è un pezzo di merda, è un massone, è uno, cioè non lo gioco, è chi su che era imparato Solina, se andava nei presidenti, mi chiamavano, non me la metto, la vedo, chiamavano Garcia, vedo, chiamavano Magnazzone, non lo so. Quando è venuto a Sorso con Antonello, l'onorevole, come si chiama, non so se se ne sono andati a Tempio o non so dove, a una terma, vera Bruce Garbi, vedere Nelly Dre, e io che ci ho fatto a Pizzi, che ci ho fatto, l'anno che a Sorso non so che tipo di elezione c'era, ed era venuto anche lui, che erano al Palazzo Baronale, e mi hanno buttato fuori da Facebook, che mi chiamavo John Bossing su Facebook di prima, ce l'avevo qualche 15 anni che su Facebook, me l'hanno buttato fuori perché era un, c'avevo un nominativo, come si dice, non veritiero, la data di nascita non veritiera, e hanno detto no, e allora mi hanno cancellato il profilo, e allora quello l'avevo rifatto nuovo, però nel frattempo che loro mi hanno rovinato la schiena a me, di tutti i farmaci e le cose, io sono guiano, perché allora loro a me hanno agito perché io essendo con la patologia della talassemia, quindi sono, ho l'invalidità del 100%, a livello lavorativo non posso lavorare, pure se magari busso qualche cosa, però per legge non posso lavorare. Quindi cosa hanno fatto loro? Come mi hanno visto a me, hanno visto i soldi, come hai detto tu, hanno visto i soldi e hanno detto questo ragazzo, tanto sarà 5, l'abbiamo la fine, avrà fermo il trattamento a cielo aperto, questo era il buco di Guadagnani, 10.000 euro in laparoscopia, che sarebbe un buchettino per rimanere la punta della vertebra, mi hanno aperto la schiena, deve essere che non so cosa hanno fatto, e praticamente dalla vertebra L3 hanno rotto L4, L5, L2 ed L1, e mi è arrivata una sorta di scaletta tra viti e ferriti nella schiena. Guarda, non so cosa dici a chi, neanche io ne so. E questo è tutto dal 2000, allora, novembre 2000, no, mi hanno operato settembre, 22 settembre 2016 e poi il 18 marzo del 2017. Io dopo quasi 10 anni lì, quasi 10 anni, soffrendo, perché ti dice, ma ci vuole te. Finito ero dentro, finito adesso come mi dicono cosa, arrivo a sapere che Luciano Iagan arriva a rifiutare e mi dice mamma mia, e dico no, mamma mia, non la giudico. E quello che viene a me, la giudico tutto tanto a capo a voi di venire quando mi viene nel rigore a me. E perché fanno così? Ma ti siete una massa di delinquenti, la giudico, fanno delle miserabili, siete una massa di delinquenti, perché la giudico io ero un ragazzo tranquillo come voi, come tutti. Me ne andavo, me ne stavo per i fatti miei e niente. Questa sorta di dolore è successa perché praticamente prima ho fatto un altro intervento, sempre perché con la scusa che ero talassemico, dice che consumavo un po' troppo sangue, e siccome l'adulto alla fine dice che non ha bisogno della milza, che la mia era già un po' grande, che poteva causarmi dei problemi. Allora mi sono informato, documentato, sono andato e ho fatto l'intervento e mi hanno tolto la mente. Però tutto è successo da lì, perché deve essere che mi hanno piegato strano, non lo so, qualche cosa è successo lì. Perché dopo che ho fatto quell'intervento ero sempre un po' mal di schiena. Sono stato tipo 2 mesi o 3 mesi, sembrava che funzionava tutto bene. Invece poi di nuovo è venuto l'inverno, come è venuto l'inverno, ma spaccato, spaccato, sono sempre di così, sempre di così. Prima più o meno riuscivo anche a guidare la macchina, la 127, mi si parava a campagna, a Predugnano, a Enghili, e mangiavo un panino, bevo una lattina di Coca-Cola, di birra, una bottiglietta d'acqua, dipende dalla mattina cosa mi stava a capo. E tavolini, guardavo un po' la campagna, lo sai, mi avevo buscato un tavolino, una sedietta sotto l'albero dell'olivo, poi c'era un 127 rosso, seconda serie, ogni anno stavo in farracciminente, buio in moto, facevo qualche giritino piano piano in giro all'olivetto, a livello di, come si dice, di perimetro laterale, e niente. E poi mi rimanevo tutto nel sedile perché rimaneva morbido, bello. E nulla. Allora, manco mi riesco perché c'ho quel piede ferito come mi era caduta la stampella. Mi sono fatto un graffietto tra il dito grande e il secondo dito. Non ne guarisce perché quelle gambe, soprattutto la sinistra, rimaneva sempre un po' compressa con i nervi da quando mi avevano toccato la schiena. E quindi quando quella gamba si gonfia un po', drena da quella ferita. E non ne busso, non ne davo bene perché non guarisce. È inutile che poi vieni la dottoressa, ti mando la dottoressa dell'Adi, ti mandiamo le medicine, le garze, da voi arrivi la di che mi devi fare la medicazione al piede, e non mi hanno mandato né garze, né medicine, né guide, né guide, siamo in farmacia, Sassari, ti dice, ma non ne abbiamo neanche noi. E allora che cazzo gli dici tu, cosa viene a fare questa infermiera? Dici, io sono contento che lavora, però la giusta è inutile che ci devo stare con uno stress. E ti tende a questa infermiera che viene dalle 8 alle 2 della mattina, la mattina, all'orario dalle 8 alle 2. Un paio di volte viene alle 10 e mezzo, il primo primo veniva quell'ora lì e mi andava bene perché più o meno ero già sveglio. Ma cazzo, ultimamente venendo tipo alla 1, alla 1 meno 10, alla 1 e 10, poi mi è stressato e non arriva a vestura, no, non ce la faccio più. Perché mi sdraio io nell'arco della mattinata, se sono un po' addolori, nello stesso tempo mi sdraio un po' nel letto, lì poi c'è la televisione, la radiolina che ho comprato come quella che hai tu, me ne ascolto un po' di musica e niente. Però non va bene perché io forse non ne so, sono buttato dopo bravo, ma ne va a Sussani, a Giubiliddu e quindi è successo quello che è successo. Ha scritto Regno in Areddu e ha stato con l'accetta, avrà dispaccato in capo, berra lì. E ti dico che, allora, l'ortopedico lì della clinica della Testa Bianca, terzo piano, ortopedia è di Giancarlo del Su, Giancarlo, come si è giudito, Giancarlo Duria. E poi c'è dall'altro, Melia, Fabio Melia, che ha visto quello occhialino di sottopedico, bestino, che vuol pigliare il cuto a terra, anzi, era voluto molto da meno vedo lì, perché quello ne sta prendendo l'impronta di Carlo Duria, di produttore, ho preso, si può far mano prima dell'ora, ma è inutile che tu vai ad agire come hai detto tu, Gabri, certo che prendi le persone e le usi loro di fubaffa di là, non andava, che ora ti dico che il bisticu, un giorno nell'aldilà il bisticu si servito ancora vivere, a chi ora ti dico, la dici, non devi stare a Duria, perché so dove abita, salendo a Usilo e tutti da Sassari, la dici a te vengo, tu bisticu e ti buongo il fugu, non è a casa tua, non vedi tu. Se no la giusto di vostro, la giusto una striscia di giorni che andrà in una... e devi gattuttare, fa forza devi gattuttare, una striscia di porticci ma lega da mai. Sì, un pezzo di merda la giusto, boh, la giusto sarà il discorso, la dica la giusto lì al San Pietro, a piano terra, perché io le trasfusioni le faccio a San Pietro, al secondo piano, in pediatria a destra, dove c'è il settore dei grandi, dove noi da piccolini abbiamo sempre fatto le terapie lì e tuttora le facciamo lì. Invece tipo il mio amico di Porto Torres, Emiliano Manchia, con Pulticera, Francesca, eccetera, eccetera, adesso mi ricordo il cognome, loro andavano tutti al centro, e infatti mi dicevano, cazzo, al centro si sta male, adesso da te si trovo, c'è più spazio, vi danno il panino, vi danno da mangiare, tutto. Gli infermieri sono bravissimi da noi, però la cosa generale era che a me mi hanno mandato da questo ortopedico, ma a parte di me, poi con la scusa che sono, che c'era anche mio padre, gli chiedo un po' buco, lo sai se è vero, l'antica, ma ne faccio di me, io si sono preparato, come sono matto, come si mani c'è bidardo, boh, non ne so così più dubbi, tutto qua, a te capito. Queste sono, quelle sono le conseguenze, quelle sono le conseguenze di essere già a volte di ascoltare i medici. Io me lo posso, io mi posso immaginare della, cioè non me lo posso immaginare, chi immaginarsi le cose bisogna passarvi, però è feo, è brutto, brutto, brutto, brutto. Noi, cioè per esempio noi, io avevo passato una cosa così quando ero piccolo per una frattura al braccio, visto veramente ancora, vabbè, e tra di ragazzo ammazzo, andando poi, vabbè, sto dottor Chiarolini, sto dottor Chiarolini, ma a me, io poi grazie alla fisioterapia, grazie all'altra operazione, avevo preso e mi avevo aggiustato il braccio. Ma porca miseria, magari che mi mandate tutti i canti, che messaggi, io. Va bene, adesso che avete mollato ne approfitto, dai, che mi devo allontanare, devo dare un aiuto a, in cucina. Ci sentiamo più tardi se ne avete voglia, dai. Ehi, a te. Sì, sì, sì, sono, sono qua. Però che mi sono arrivati dei messaggi a rotta di collo, mi sono arrivati. Va bene, buona, buona cena a te, a quelle familiari. Scusate che voi avete il telefono fuori perché adesso lo sbatto a terra. E sentiamo subito. Ciao Tino, buona cena. Vai Gianni. Gaffa, gaffa. Anda bene, allora buona cena Tino, nel caso ci sentiamo dopo, dai. Anda bene, a dopo. Vabbè dai, adesso devo, devo cucinare, poi, poi andrò a mangiare, quindi farò tardi. Io sono sempre quello, l'ultima ruota del carro per mangiare la sera. Poi mi lamento che non ho digerito bene perché mi colgo subito dopo mangiato, però è così, purtroppo ormai abbiamo questa abitudine di mangiare tardi, anche se avrei preferito mangiare un pochino prima. Va bene, dai, preparo, poi nel caso sentiamo più tardi. Dai, ciao Gianni, ciao ciao. Ciao che avete tardi. Ciao. Ehi, no, io ho già cenato, io ho già cenato, ho mangiato stasera una burrata, finito, leggero, leggero, leggero, leggero, perché sennò vi succede un disastro. E sì, sono, sono, adesso mi guardo queste foto che mi hanno mandato e poi riprendo, datemi 5 minuti già e poi riprendo, ok? Buona cena. Ok, perfetto, dai, a dopo. E comunque via di chi su caputteggia è vero, in maricata mara ma caputteggia. E se no da rimbriaghire chi si bigliani quando vanno a fare quegli spuntini come hanno fatto tipo un paio d'anni fa, che non so cui si dovevano, nel Nuorese a poter andare al congresso erano tutti canti impuntinenti con i bastoni. A vedere che abbigliavo una va. Io non ho mai augurato niente a nessuno, ma chi si abbassona era pur da mucca, da meno rida, perché non si gioca sulla pelle degli altri. Con la scusa che tu cioè, avevi i soldi, che sei diventato dottore, che avevi avuto riparato il bidacculo, però non funziona così, non funziona così. Il karma, vedrai che il karma già torna lì. Sì, perché bisogna apprendere, bisogna, a volte è brutto da dire, però a volte bisogna farsi anche giustizia da soli. A voi bisogna pigliare e dire, beh, dove? A vara devi pagare, a chi tu mi ha arruinato a vara devi pagare. Non c'è niente da fare. Ma almeno io la penso così. Poi, le legali, le cose sì, però se i legali si rifiutano, fare una denuncia anche legali. Cioè denunciare anche legali, dire perché questo legale non mi vuole tutelare a me? Perché è un pezzo grosso, il legale deve, altrimenti me ne deve dare uno d'ufficio, qualcuno, io voglio fare la denuncia. E avevo denunciato la viuva, scusando la parola, la viuva tigni, tutti quanti i ringhi di Romondo. La viene bagata, riprendo subito già. Ok, ok, avvi, a dopo allora, va. A dopo, ciao ciao. Eccomi qua. Ecco, ecco, un video stavo guardando. Sì, sì, sì. Capitano fare in diraria. A me devo se prende chissà, mi appende una fiuccina da e le funendi in una secca di un arbaretto. Ha fatto la mulla con un pezzo di gruverro, un pazzo questo qua. E non aveva fatto bene a pigliare un ruccio e attaccare la fiuccina e andare a fare la fiuccina con cose che devi fare. Le fiuccine vanno fatte in acciaio già. Io l'ho fatta qualcuna, in acciaio inossidabile. Fatte bene, va fruscina poi. Un amico mio che va a pescare le murene si è messo un manico, boh, si era fatto un va in legno strano con la vitatura e arriva fino a 4 metri. Andava, no, questo qua praticamente si è fatto una molla lui, deve essere per quando arpione, capito? Però no, per me non aveva, cioè andava a fare ma per me il classico è sempre quello, come hai detto tu, andi bus, vedi, non viene. Poi magari se c'è qualche filaccione metti anche un filaccione e lo recuperi a ultimo. Sì, ma la pesca, questo amico mio va a fare pesca di murene e andà a stringere con un bel povero, comunque si mette lo stivale e va a mare di fuori. E sfrega il polpo della roccia, l'ulimo vi dà se lo puoi fa da visitare i mureni. Ascolta, ma ti volevo chiedere una cosa, ma tu avevi comprato quelle schede per il 48, per il doppio modulatore, così, e cos'è il doppio modulatore o bip? Allora, siccome c'è un 48 che quello che dovevo mettere l'adesivo America, mettere le luci, l'avevo preso per quello, c'è un trasformatorino per il doppio modulatore, con la schedina del doppio modulatore l'ho comprato da Franco Thor, però ho preso quello dove me lo devo saldare io, i chip, poi avevo preso i chip da AliExpress, quindi c'ho il doppio modulatore, poi c'ho la schedina ecco normale e la schedina Roger Bip normale, capito? Le volevo mettere quelle tre cose, ce le ho qua nella scatoletta con le istruzioni e tutto, però non ho mai busso io. Poi ho comprato anche il display, adesso non mi ricordo se era blu o se era rosso quello lì, è un meter nuovo che avevo preso, colorato stesso, vabbè che lì basta che cambia la lampadina, però siccome ti chiederà tutto bianco c'è lo sfondo più bellino, capito? Ce li ho me, infatti devo ribaltare lì su Alan 48 e metterlo lì, perché c'ho anche, come si dice, c'ho una stecchetta di finali, adesso non mi ricordo se erano 18 o 21 a tre piedini, li devo leggere lì. E poi ne avevo preso due originali, mi sembra, Toshiba, che erano quelli che si portavano sino a 40 watt, sempre a tre piedini, però quella non me la ricordo la sigla com'è. E ce li ho in una scatolina dentro lì. Ma i finali li vendi? Ma secondo che finale ti serve, di un logo, a se trubilli, cosa ti vendo? Buscava la misura un euro, due euro. No, mi servono, dovresti avere tre piccolini e uno grande, così è. No, praticamente nell'Alan 48 dentro c'è un finale a tre piedini, che sarebbe quello che cambiano per la potenza, e dice che ti cambia anche un po' la voce. e devi mettere un'altra resistenza piccolina. E niente, e c'ho quelli lì per la modifica e due, perché non so buba cos'è, a Baidenni. Allora ho messo la sigla e li avevo trovati in Francia da EB e ne avevo preso due, quelli li avevo pagati di più, però mi sono pagati 4 euro. E dice che quello lì potevi fare 40 watt, cioè arrivava a un massimo di 40 watt in modulazione. A qualche nagli sono vicio qui siciliano che aggiusta le radio, mi capisci? Eia, se li vuoi vendere già quelli lì, fammi, perché io te li prendo tutti, te li prendo tutti quei finali. Cioè se non devi installare quella roba lì, quelle schede, quella roba lì, fammelo sapere, perché io ho un Saturneco e lo volevo modificare, però devo vedere se sono compatibili quelle del 48 con quelle del Saturneco. Se dovessi decidere di vendere, che non li devi piazzare, me lo dici. Quel doppio modulatore, quella roba lì te la prendo io e i finali, capito già? Eia, gappa, mi domani me li controllo e me li scrivo appena le sigle, perché se no non rivedo bene, se non li punto la luce per vedere il numeretto non rivedo bene, capito? E se ti faccio sapere, nel caso di Gumi, te piglia di tutti. No, io te li pago. E li prendo, e me li prendo. Tu mi dici quanto li hai pagati, io te li prendo. Perché voglio. Adesso faccio una ricerca e vedo un pochino. Oh, sì, se ti ricordi, ti segni i numeri dei transistor, quanti transistor, se no mi mandi una fotografia della roba che hai, già c'è il numero del telefono su WhatsApp, e mi scrivi anche i prezzi. E poi io li prendo, perché quella roba lì, ti ripeto, un Saturneco da cambiare i finali bruciati, e devo vedere se sono compatibili quei finali lì, e li installo anche la scheda del doppio modulatore, perché poi quella si può anche prendere e inserire e disinserire. E niente, intanto se c'è lo schemino è molto molto semplice. Poi la scheda la scheda del Saturneco io già la conosco bene e me li installo, vi seguo. Eia, avevo preso anche quei finali, non lo so quanti piedi ne hanno, forse ne hanno 12, che sono quelle, è il finale della voce mia, dell'entrata e dell'uscita, dovrebbe essere ingresso e uscita antenna per ricevere la voce e uscire tu quando schiacci il microfono. Anche quelli avevo preso, ne ho due o tre, mi pare, fino di più. E poi c'è un sacco di interruttorini, bomellini, io ne avevo comprato poco, trovati su AliExpress. Avevo preso anche quei tipo fili lunghi 20 cm mi sembra, o 18 cm. Sono colorati, una bustina, ce ne sono un po' verdi, gialli, neri, blu, bianchi. Chiaravini sono fini, ma a me non andano bene, cioè nel senso che se fai lavoro già vanno bene, però forse sono appena appena più fini, vogliono appena appena più bruciettini, là. Sì. Non lo so, se decidi di non montarli, fai una ricerca di quanto li hai pagati e tanto a me io li devo prendere. I finali e quel doppio modulatore, quello con i 12 piedini, dai, con i piedini un po' più grandi, il mixer, sì, ci va anche quello, però non so se va bene al Saturneco, devo fare una ricerca. Se tu mi mandi la foto di quella roba lì, vedo un po', faccio una piccola ricerca e vedo se una ricerca, devo guardare quello che monta il Saturneco, capito? Adesso Io li ho visti, però cioè, li ho messo a posto la ricezione, però devo seguire lo schema ormai per tutta la trasmissione. E sicuramente il pilota non è uguale, però i finali, se sono quelli potenziati, sono loro, perché poi ci sono gli equivalenti, e vediamo un pochino. Fammi sapere già, io già lo sai com'è. Non ce n'è problemi per quello, Gabriele. Poi c'ho anche, avevo comprato quella specie di, non lo so se si chiamano potenziometri, che sono tipo, questi sono tipo in acciaio, sembrano in acciaio, no? A livello di colore, e c'hanno i tre piedini che con il cacciavite li puoi aumentare e abbassare. Sono tutti di ferro piccolini. Sì, ho capito quali hai preso. Già è bello. Solo che il 48 è una raga per i pigliacoipi, cioè ti splatterano come se niente fosse. L'unico problema è quello lì, perché altrimenti come cosa già esce bene, il 48 spinge pure. Dalla 48 se lo fai con la scheda, con il doppio modulatore, ecco, Colt, anche la scheda ecco avevi preso. E infatti quel 48 li volevo mettere io, il beep, che c'ha il beep normale, no? Il Roger beep. E l'eco Colt, che sarebbe l'eco Colt normale, non è la schedina lunga eco Colt, è quella piccolina quadrata, e anche quella della cosa piccolina quadrata con un relay giallo piccolino. E domani mi ti mando le foto e te le faccio vedere, perché quelli li volevo mettere nel Italian 48 a farlo bottente, e niente. Invece non agio mai butto, perché poi ho aperto quello celeste dello squalo che avevo messo l'adesivo, e lì dentro ci sono anche 3G diviso, però no, lì funziona l'eco, lì l'eco funziona, però non ce n'ha tipo pomellino a tirare, a disinserirlo, eccetera eccetera, capito? Magari se ti do quei finali là che ti servono, tanto a me non mi giri, non mi costa niente. Magari ti do anche quella radio lì e la controlli a vedere, perché non lo so, è strana, non fammi, perché avevo messo una volta e Giulio mi ha detto che arrivava un bel potente da lui, poi non lo so, ha detto che mi sentiva bene e poi non li ho più attaccati, capito? Sì, che te la controllo, magari c'ha qualche tastino da inserire e disinserire che non vedi, perché se ha quelle schede dentro vuol dire che ha magari il doppio modulatore le modifiche, le inserisci e le disinserisci. Quanto l'avevi pagata con la radio così? Quella l'avevo presa, quella l'an 48, che quello dello squalo, diciamo, dai, che ho fatto celeste. L'avevo comprata su eBay, ma io non spendevo più di 50 euro, non le spendevo, tra spedizione e tutto. Io compravo quelle che dicevano che non erano testate, le vedevo che erano accese nella foto con il tipo display e coso, con l'ecometro, come si diceva. E allora magari io facevo l'asta oppure li facevo la proposta. Tu mi diceva, ma 50 euro, detto, ma quelle radio si valgono così, se me la vendi me la compri, se no ho detto, venderà un altro. E quindi se io ho, ne avrà giù anche dei radio. E li avevo comprati tutte così, quando mi stavano flash, li acciappavo 30, 35, 45 euro, me la comparavo, o fa pizzi o fa cosa. Poi le mettevo in corrente e funzionavano i due. Magari avevano qualche piccola anomalia in FM o in AM, che magari voleva regolato potenziometro o qualche cosa, o messa in linea. Però del genere, di rugoso dentro, sono quasi tutti originali. Sì, ma quelle lì, dai, o le vendi e te ne prendi una come si deve, oppure devi... Dai, tenertene una buona, quella che ti piace più, e quella che te le devi appezzire e cambio. Sì, che poi quelle radio lì sono una fesseria da riparare. I transistor, quei transistor finali cosa sono? I Mitsubishi, già? Allora, due mi sembra che sono Mitsubishi. Gli altri, la verità non me lo ricordo, perché mi sembra che erano, mi sembra che c'è scritto C2118 pure.